Rudolf. Seconda mezza corona sprecata oggi. Io ho detto non andare mai con ubriaco, così non prendi soldi. Blum. Nasconde lo zampetto di porco e quello di pecora dietro la schiena e, scornato, palpa la carne pedestre calda e fredda. Ja, ich weiß, papaci. Rudolf. Che fai in quel posto? Non hai anima. Con deboli artigli d'avvoltoio, palpa il volto silenzioso di Blum. Non sei il mio figlio Leopold, nipote di Leopold. Non sei il mio caro figlio Leopold che abbandonò la casa del suo padre e abbandonò il Dio dei suoi padri, Abramo e Giacobbe. Blum, cauto. Credo di sì, babbo. Mosenthal. Tutto ciò che è rimasto di lui. Rudolf, severamente. Una sera portano te a casa ubriaco fradicio, dopo speso buono denaro. Come si chiama a quelli che corrono? Blum, nell'elegante vestito blu Oxford dei giovani anni, con le mostrine bianche, spalle strette, un cappello da alpinista marrone, un orologio Waterbury da uomo, senza chiave, in argento garantito, e doppia catena Albert con sigillo pendente, un fianco impillaccherato di fango rappreso. Maratoneti, babbo! Solo quella volta, però! Rudolf. Solo quella volta! Fango dalla testa ai piedi, mano tagliata, tetano! Ti fanno caput quelli, Leopold Leben. Guardati da loro. Blum, debolmente. M'hanno sfidato alla corsa. C'era fango, sono scivolato. Rudolf, con disprezzo. Goimnachez. Bello spettacolo per la tua povera mamma. Blum. Mamma. Ellen Blum. Con cuffietta a nastri, da dama di pantomima, crinolina e sellino alla vedova Twankey, blusa con maniche sboffi, abbottonata dietro, mezzi guanti grigi e spilla con cameo, i capelli raccolti in una reticella, appare alla balaustra della scala, con in mano un candeliere inclinato, ed emette stridule grida d'allarme. Redentore beato, che cosa gli hanno fatto? I sali, sali! Si alza un lembo della gonna e fruga ansiosamente nella tasca della sottoveste grezza a strisce. Ne cadono fuori una fialetta, un Agnus Dei, una patata raggrinzita e un bambolotto di celluloide. Sacro cuore di Maria, dove mai sei stato? Dove mai? Blum, mugugnando, con occhi abbassati, comincia a distribuire i pacchi nelle tasche già piene, ma desiste, brontolando. Una voce acuta. Blum. Chi? Si china e schiva goffamente un colpo. Per servirla! Alza gli occhi. Accanto a un suo miraggio di palme da dattero, una bella donna in costume turco è in piedi davanti a lui. Curve opulente riempiono i suoi pantaloni scarlatti e una giacca con laminette d'oro. Un'ampia fascia gialla le fa da cintura. Uno yashmak bianco, violetto nell'oscurità, le copre il viso, lasciando liberi solo i suoi grandi occhi scuri e i capelli corvini. Blum. Molly. Marion. D'ora in poi tanto di Mrs. Marion, caro mio, quando mi rivolgi la parola, satiricamente. Hai piedi ghiacci, il mio maritino, a forza di aspettare? Blum saltella su un piede e poi sull'altro. No, no, neanche un pochino. Respira con profonda agitazione, deglutendo grosse sorsate d'aria, domande, speranze. Zampetti di porco per la cena di lei, cose da dirle, scuse, desiderio, magato. Una moneta le riluce in fronte, ha le dita dei piedi ingioiellate d'anelli. Le caviglie sono unite da una catenella. Accanto a lei un cammello incappucciato con un turbante torreggiante, attende. Una scala di seta dagli innumerevoli scalini sale al suo ondeggiante baldacchino. Le ambia intorno col posteriore corrucciato. Rabbiosamente essa lo percuote su un'anca e i suoi braccialetti frendorati stizzinnano, rimbrottandolo in lingua moresca. Marion, nebracada, femininum! Il cammello, alzando una delle zampe anteriori, coglie da un albero un grosso mango. Lo offre alla padrona, ammiccando, con lo zoccolo fesso. Poi abbassa la testa e, grugnendo, col collo eretto, si inginocchia a tentoni. Bloom china la schiena come per giocare a saltamontone. Bloom, posso benissimo darle, voglio dire, come suo impresario, Mrs. Marion, se lei... Marion, così ti accorgi che qualcosa è cambiato. Passa lentamente le mani sopra il pettorale ingioiellato, una lenta, amichevole espressione beffarda nei suoi occhi. Oh, Poldi, Poldi, sei proprio un pulcino bagnato. Va a imparare a vivere, vedi un po' di mondo. Bloom. Stavo proprio per tornare per quella lozione, cera bianca e acqua di fiori d'arancio. La bottega chiude presto il giovedì, ma la prima cosa domattina si batte con la mano varie tasche. Questo rene mobile. Ah! Punta il dito a sud, poi a est. Un panetto di sapone al limone nuovo e pulito sorge, diffondendo luce e profumo. Il sapone. Io e Bloom. Bella coppia davvero! Egli illustra la terra, io vi lustro il cielo. Il viso lentigginoso di Sweeney, il farmacista, appare nel disco del saponsole. Sweeney, 3 scellini e 1 penny, prego. Bloom. Sì, per mia moglie, Mrs. Marion, ricetta speciale. Marion, a bassa voce. Poldi. Bloom. Sì, signora. Marion, ti trema un poco il cuore? Con disprezzo si allontana ancheggiando, canticchiando il duetto del Don Giovanni, paffuta come una piccioncina ben pasciuta. Bloom, sei sicura di quel voglio? Voglio dire, la pronun la segue, seguito dal fox terrier annusante. La ruffiana annosa gli afferra la manica. Le setole del porro che ha sul mento scintillano. La ruffiana. 10 scellini, una verginità freschissima, mai toccata prima. 15 anni. Non c'è nessuno, solo il suo vecchio che è ubriaco fradicio. Addita, nell'apertura della sua tana buia, furtiva, grondante di pioggia, Bridie Kelly attende in piedi. Bridie. Hatch Street. Hai buone intenzioni? Con uno strilletto sbatte le ali del suo scialle da pipistrello e corre via. Un grosso teppista la insegue a passi stivaluti. Inciampa sui gradini, si riprende, sprofonda nel buio. Si sentono deboli strilli di riso, più deboli. La ruffiana, le brillano gli occhi di lupo. Si prende un po' di piacere. Non ce la trovi una vergine in quelli di lusso. 10 scellini, non ci pensar su tutta la notte, se no i questurini in borghese ci vedranno. Il 67 è un figlio di puttana. Sogghignante, Gertie McDowell si fa avanti zoppicando. Occhieggiando, tira fuori da dietro le spalle e mostra ritrosa la biancheria insanguinata. Gertie, tutto quello che ho al mondo ti dono e ti abbandono. Mormora, sei stato tu. Mi fai orrore. Bloom. Io? Quando? Tu sogni, non ti ho mai vista. La ruffiana. Non seccare il signore, imbrogliona. Scrivi false lettere al signore. Batti la strada e adeschi la gente. Tua madre dovrebbe attaccarti al piede del letto e dartele di santa ragione, sgualdrinella. Gertie. A Bloom. Quando hai visto tutti i segreti del mio cassetto di fondo? Gli accarezza la manica piagnucolando. Sudicione di un ammogliato. Ti amo proprio per quello che mi hai fatto. scivola via di traverso. Mrs. Breen, in un soprabito da uomo di lana grossa con tasche a soffietto, è ferma in mezzo alla strada, gli occhi sbarazzini sbarrati, col sorriso di tutti i suoi erbivori denti da daino. Mrs. Breen, Mister Bloom, tossisce gravemente. Signora, quando abbiamo avuto il piacere con la nostra ultima del 16 del corrente mese, Mrs. Breen, Mister Bloom, lei qui, in questi luoghi di perdizione, l'ho colto, briccone. Bloom, a precipizio, non mi nomini così ad alta voce, per chi mi prende? Non mi scopra gli altarini, i muri hanno orecchie, come sta? È un secolo che non la... Ha una splendida cera, davvero. È un tempo di stagione quello che abbiamo ora. Il nero rifrange il calore. C'è una scorciatoia per tornare a casa da queste parti. Quartiere interessante. Riabilitazione delle donne perdute. Ospizio Magdalen. Io sono il segretario. Mrs. Breen alza un dito. Via, non conti balle. So di qualcuno che non sarebbe contento. Aspetti che veda Molly, furbesca. Si giustifichi immediatamente, o guai a lei. Bloom guarda dietro di sé. Ha detto spesso che le piacerebbe visitarli. Quartieri malfamati, esotismo, vede? Anche servi negri in livrea se avesse quattrini. Otello, il bruto nero. Eugene Stratton, anche quello che suona la castagnola, l'uomo di spalla dei cantanti negri Livermore. I fratelli Bowie. Anche lo spazzacamino quanto a questo. Saltano fuori Tom e Sam Bowie. Canterini di colore vestiti di tela da marinai bianca, calze scarlatte, colletti sambo inamidatissimi e grandi aster scarlatti all'occhiello. Tutti e due hanno un banjo appeso al collo. Le loro mani negroidi, più pallide, più bianche, fanno vibrare le corde tintinnanti. Facendo brillare bianchi occhi da cafri e zanne d'elefante, si lanciano in una danza folle. Coi loro grossi zoccoli, strimpellando, cantando, spalla a spalla, punta e tacco, tacco e punta, con labbra da negri grasso schioccanti. Tom e Sam, c'è qualcuno a casa con Dina, c'è qualcuno a casa, lo so, c'è qualcuno a casa con Dina a suonarle il vecchio banjo. Fan saltar via le maschere nere dalle facce grassocce, patatose, poi. Ridacchiando, gracchiando, tambureggiando, pizzicando, van via, ballonzolando tra la la la il cake walk. Bloom, con un sorriso, tra l'acido e il dolciastro. La facciamo qualche sciocchezzuola, se non le dispiace. Non le garberebbe se l'abbracciassi per una frazione di secondo. Mrs. Breen grida allegramente. Che sfacciato! Ma si è mai guardato allo specchio? Bloom, per amor dell'amore d'un tempo, intendevo una partita a quattro, un matrimonio misto, un composto di tutti i nostri vari congiungimenti. Lei sa che ho sempre avuto del tenero per lei, cupamente. Son io che le ho mandato quella letterina della cara gazzella il giorno di San Valentino. Mrs. Breen, santi numi, è proprio un bel vedere, da rimanerci. Alza una mano inquisitoria. Cosa nasconde dietro la schiena? Lo dica, su, da bravo bambino. Bloom le afferra il polso con la mano libera. Josie Powell dei bei tempi, la più adorabile fanciulla di tutta Dublino. Come vola il tempo. Si ricorda, risalendo il tempo in un'inquadratura retrospettiva, quella sera di Natale, l'inaugurazione della casa di Georgina Simpson. Mentre giocavamo a quel gioco di Irving Bishop a trovare lo spillo con una benda sugli occhi e la lettura del pensiero. Problema. Cosa c'è in questa tabacchiera? Mrs. Breen. Lei fu l'eroe della serata con la sua declamazione serio-comica e la parte sembrava le andasse a pennello. Lei è sempre stato l'idolo delle donne. Bloom. Cavalier servente in giacca da sera con risvolti di seta marezzata. Distintivo massonico azzurro all'occhiello, cravattino nero e bottoncini di madreperla, brandendo un bicchiere prismatico da spumante. Signore e signori, brindo all'Irlanda, alla casa e alla beltà. Mrs. Brin, i cari vecchi giorni passati ormai senza rimedio. D'amor la vecchia dolce canzone. Bloom, abbassando la voce con tono allusivo. Confesso che bollo dalla voglia di sapere se una certa cosa di una certa persona sta bollendo o no. Mrs. Brin, espansiva. Bolle terribilmente. Londra bolle e io son tutto un bollore. Gli si strofina al fianco. Dopo gli indovinelli da salotto e i dolci col botto sull'albero ci sedemmo sull'ottomana delle scale, sotto il vischio. In due è la migliore compagnia. Bloom porta un cappello a tricorno violetto con mezzaluna d'ambra. Le dita e i pollici gli scorrono lentamente sul palmo della mano di lei, liscia, umida e carnosa, che ella gli abbandona mollemente. L'ora maliosa della notte. Levai una scheggia da questa mano con molta cura, lentamente, con tenerezza, mentre le infila al dito un anello col rubino. Là ci darem la mano. Mrs. Brin, in abito da ballo d'un solo pezzo, eseguito in color azzurro chiar di luna, con diadema da silfide di orpello sulla fronte e il carnet di ballo caduto accanto alle pantofole di raso azzurro luna, curva dolcemente la palma della mano, con respiro frequente. Voglio e non. Ma lei scotta, mi brucia. La sinistra è la mano del cuore. Bloom. Quando lei scelse colui che oggi è il suo compagno, dissero che era il caso della bella e la bestia. Non gliela perdonerò mai. Porta alla fronte il pugno chiuso. Pensi a quello che vuol dire, a tutto quel che lei voleva dire allora per me. Rauco. Donna. Ciò mi distrugge. Dennis Brin, alto e bianco il cappello, uomo sandwich di Wisdom Hely, ciabatta passando accanto a loro, barba smorta protesa in avanti, borbottando a destra e a sinistra. Il piccolo Alf Bergan, infagottato nel manto del lasso di picche, lo tallona a destra e a sinistra, piegato in due dal gran ridere.